Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciate un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Non siamo un popolo felice, non siamo un popolo felice, signori. Sono le 6:31 minuti, anche l'ONU lo dice nel suo rapporto annuale, siamo 50esimi al mondo per felicità. Prima è la Danimarca, noi siamo laggiù. Anch'io ieri sera, guardate, ho avuto una giornata pesante ieri. Sono andato a letto alle 10:15, non ce la facevo più. E sono andato a letto con quel senso di pesantezza, di quel velo di tristezza. Perché? Perché? Ancora Morata scatenato, grande azione, Quadrado tutto solo, Quadrado, destro, rete! No, ho detto che no, ma neanche anche questo, una Juve che trionfa a Monaco, già vedo i titoli della Gazzetta, già vedo i gobbi che mi scrivono, Twitter che impazzisce, mi rompono i maroni, mi sfrantumano gli zebedei anche oggi. E invece? Nein! Eh no! Ti svegli alle 5 del mattino, apri la app della Champions League e scopri che... Scopri che... Bravo, Douglas Costa! Va al tiro, cross pericoloso, colpo di testa! No! No! È uscito al 90esimo a trovare il Barco, riapre la partita. Riapre. Nein! Porca. Cross teso, colpo di testa, rete, Müller! Müller! 2-2, incredibile. Nein! Attenzione, palla in mezzo, Alcantara, prova lui, rete. No! Thiago Alcantara. I tedeschi che non mollano. Proprio lui. Comando velocissimo, che falcata. È già dall'altra parte, pensa al tiro, prova col sinistro, rete! Vabbè dai ragazzi, amici juventini, non vi demoralizzate, state allegri, allegri, e l'anno prossimo si riprova, dai. C'è la Coppa Italia, dai, vincerete la Coppa Italia contro noi del Milan, la coppetta quest'anno l'alzerete. Vabbè, sono le 6:33 minuti, sono troppo cattivo? Lo so, chiedo a Umberto Brindani, ma Umberto Brindani mi risulta essere tifoso della Juve o no? No, sì, sono interista. Ah, sei interista? E allora dai, salta con me. Non sarai mica di quei patriottici italiani che devono... Ma stai scherzando? In questo momento metà dell'Italia gioisce. Appunto. Ma tu, perché tu non ti sei mai sentito un po' tedesco? Io... Ma no, ma cerchiamo di non essere ipocriti. Ieri sera ieri sera i miei vicini, che avevano fatto un gruppo d'ascolto e sono juventini, non lasciavano dormire mio figlio perché ogni gol fatto o mancato gridavano. Poi a un certo punto si sono muti. Muti. Comunque c'è Umberto Brindani, direttore di Oggi, interista mio, vieni qui, abbracciami. Oggi facciamo cose così tra milanisti e interisti. Caro Umberto Brindani, vabbè, ma dai, non è questo lo spettacolo. Io da due giorni dico, ragazzi, che spettacolo le amministrative, il voto alle amministrative. Guardate, è come non avendo pagato il biglietto, cioè assistiamo a delle robe incredibili. Giorgia Meloni che oggi sarà nostra ospite alle 8:40 con Oscar Giannino, l'ascolteremo, ma poi ci sono delle robe incredibili. Per questo dobbiamo convocare, caro Umberto, anche una vecchia volpe della politica, l'onorevole Maurizio Bianconi, conservatori e riformisti. Buongiorno Maurizio, come va? Buongiorno a voi, bene. Tutto bene. Che spettacolo queste elezioni amministrative. Ma si candidi anche lei, Bianconi? Ha visto come ha detto Tosi? Io sono buono a fare il sindaco, mi candido io. Quello di Verona. Questa di Tosi adesso vi devo far sentire uno scoop incredibile, perché voi non sapete chi ha dato l'idea a Tosi. Apriamo il Parlamento, perché vi devo far sapere questo. Tu, Umberto Brindani, sai chi ha dato a Flavio Tosi l'idea di candidarsi a Roma, forse? No, questo è il tuo scoop. È il mio scoop. È perché la colpa è mia. La colpa è mia. Giuro, la colpa è mia. Allora vi faccio ascoltare. 8 marzo mi invitano a Coffee Break, Andrea Pancani sulla 7. Finisce la trasmissione e Tosi era ospite anch'io, e succede questo. Senti un po'. Perché il dramma è che Roma vive da molti anni, in particolare Ignazio Marino, ma anche altri, di assoluto non governo. Cioè a Roma serve un sindaco che sappia fare il sindaco. Si candida Tosi. Tosi da Verona a Roma porterà l'esperienza veronese qui. Buongiorno Mirko Merlino, centrodestra. Milan mi ha dato un'idea, ma io scherzavo, Tosi, io scherzavo, Flavio Tosi, no, vi prego. Brindani, Bianconi, dite qualcosa, ma io scherzavo. Cosa devo dire? È la realtà che supera la fantasia ormai. Siamo al di là del bene e del male, insomma, abbastanza. Sì, Brindani, sì. Direttore, io scherzavo, ditegli che scherzavo. Devi stare attento a quello che dici, è stato autorevole. Ora candidano tutti, no? Tanto hanno già vinto, perché è un'elezione ormai senza brividi, perché vince questa avvocatessa che sembra molto pronta, molto stimabile. E tutti i sondaggi la danno non vincitrice, ma semplicemente trionfatrice. Quindi, la Virginia Raggi, il pronostico di Bianconi. No, è mio, di tutti gli istituti che stanno facendo i sondaggi. Ma per la verità devo dire il vero, è anche il mio, non da adesso. Tra l'altro Bianconi si sa grande amico del Movimento 5 Stelle. Una volta in aula a uno del Movimento 5 Stelle ha detto, cos'è che gli ha detto Bianconi? No, li offendo tante volte, perché sì, perché loro offendono noi. Cioè, io non sopporto di questi ragazzi, perché sono quasi tutti ragazzi, che loro sono i più bravi del mondo e non si capisce una tega nessuno e siamo tutti ladri. Non è possibile che il mondo sia diviso nei buoni che sono loro e nei cattivi che siamo noi. Dice, però, anche statisticamente è un po' improbabile. Voglio dire, io, come dico io sempre, nessuno ha l'esclusiva degli imbecilli e nessuno ha l'esclusiva dei disonesti. Ci sono di qua e di là e da tutte le parti. E quindi è questo modo di porsi che è sbagliato. Molte cose che dicono non sono sbagliate, ma è questo modo di porsi molto giustizialista, è insopportabile. Allora, però, io ho qua la copertina di oggi, di ieri, caro direttore. Voi avete fatto lo scoop vero sulle amministrative, cioè Salvini è innamorato. È innamorato. Lo scoop vero, a parte il bacio che insomma si aspettava da mesi per confermare questa relazione tra Salvini e Elisa Isoardi, il vero scoop è nel libro che Salvini tiene in mano. È nel libro di Renzi, sì. Si studia, studiare il nemico per combatterlo, no? Ma guarda, ti dirò, poi io l'ho sentito Salvini, ovviamente il giorno prima l'ho chiamato per avvertirlo che sarebbe uscita questa copertina, no? Per un gesto di correttezza, e lui è rimasto ovviamente un po' basito dal fatto di essere stato, come si dice, beccato dal fotografo. Paparazzato, e gli ho detto che aveva in mano questo libro. Gli ho detto: sì, è vero, lo sto leggendo, il libro su Renzi. Ma infatti, non può occuparsi di quello. Cosa sta succedendo nel centrodestra? Sentiamo Brindani, prima il giornalista e poi Bianconi con la sua solita urticante lingua. Allora innanzitutto, poi voglio sapere se per caso anche Bianconi si mette in vista per. Questo Roma. Lo vediamo. Magari si candida, gli diamo un'idea. Solo lui che credo si collochi da qualche parte nel centro destra, no? Sì, non è la risposta, mi candido, sì, mi colloco nel centro destra. Mi colloco nel centro Ma è vero, non è facile capire dove. È bravissimo. Però, direttore, no, che succede a Roma, per esempio? Ma che succede a Roma? A Roma è, come dire, è l'esperimento in vitro della dissoluzione del centrodestra, perché, allora, stamattina, mi credo, Pane Bianco sul Corriere dice una cosa molto semplice, che comunque sia Salvini sarà vincitore di questa tornata, perché... Ha ragione Bianconi quando dice che la Raggi del Movimento 5 Stelle a questo punto è la grande favorita. Forse, e quasi certamente, se la giocheranno lei e Giachetti per il PD, con i 4 o i 6 o gli 8 nani a questo punto del centrodestra che si faranno fuori uno con l'altro e nessuno di loro andrà al ballottaggio. Però questo vorrà dire per Salvini che lui è il nuovo leader del centrodestra, perché è lui che decide chi vince e chi perde. Questa lettura, vediamo se Bianconi, tra l'altro Bianconi in un'intervista a me concessa per Libero, straordinaria intervista, ovviamente non per le domande ma per le risposte, lunedì scorso, ha detto, perché Bianconi è uno di quelli che pensa che la rottura tra Berlusconi e Verdini sia finta. In realtà Verdini sia lì così, no? Bianconi, per far governare in occulto Berlusconi, no, con Renzi, questo la traduciamo così. Ero solo a pensarlo qualche mese fa, oggi siamo tanti a pensarlo. Perché si pensa anche che Berlusconi abbia scelto a questo punto e difenda Bertolaso per perdere, per dare a Giachetti... Sì, la cosa è più complicata, se posso vedere come la vedo io. Sì. Il problema è chi farà il leader nel 2018. Salvini si è illuso di fare il leader avendo il partito con i maggiori voti, sì, e la Meloni non l'escludeva sognando una ricomposizione molto ampia della destra. Sì. Quando si sono accorti che comunque l'anziano leader, anche se ha 3 voti, tira sempre fuori un Bertolaso dal cilindro e glielo imporrà, hanno capito che era battaglia persa stare con Berlusconi e quindi lo stanno mollando, cercando di creare un centrodestra alternativo che consenta, come dice Brindani, a Salvini di fare il leader. C'è in palio questo, cioè non è Roma, non è Roma in palio, no, chi se ne frega, guardate oltre, cari ascoltatori. No, Roma ha già vinto. Roma è perduta, Roma è perduta. Bravo, mentre mentre Roma parla, Sacuto brucia. Cioè, voglio dire, Roma è già persa. Però stia attento, Milan. Il problema è ancora più complicato. Perché accidenti. Salvini non può fare il leader nazionale quando ha un partito che gli si ferma Rimini. Quindi ha bisogno di coperture al centro Italia e al sud Italia. Sì, però è riuscito a dimostrare che c'è Brindani, che c'è la Lega a Roma, quando io non sì, dico, ma la Lega a Roma c'è perché c'è la Barbara Saltamartini, che un certo seguito ce l'ha. Come ci siamo noi tutti i votanti della Saltamartini, esatto, voglio dire, siamo nell'ordine del 2%, 2,5%. Però Brindani col 2% riesce a diventare leader. I voti pesano. I voti, per parafrasare Enrico Cuccia, si pesano e non si contano a volte. Cioè, chi mai avrebbe pensato che Salvini sarebbe stato determinante per le sorti di Roma, no? Quindi, sì, è vero, ha ragione Bianconi quando dice che non c'è il partito da Roma in giù, il partito della Lega da Roma in giù. Però è anche vero, come stanno dimostrando le elezioni, ha ragione, voglio dire, Bianconi, nel suo ragionamento, cioè ci sta, come direbbe Salvini stesso, insomma. Però, come dimostrano per esempio le elezioni americane, oggi nessun partito può fare a meno di un leader carismatico, no? Il centrodestra, da quando Berlusconi, un po' per ragioni anagrafiche, un po' per ragioni giudiziarie, è stato messo, diciamo, fuori gioco, il centrodestra sta affannosamente cercando il leader carismatico. Per ora quello che è Salvini. Tra l'altro, ieri Umberto Bossi ve l'ha definito così: è un coglionazzo, Bianco, un coglionazzo. E oggi Umberto Bossi dice alla stampa: io voterei Bertolaso. Cioè, capite che spettacolo che sono queste elezioni? Bossi passa sempre davanti al mio banco e fa: quel Salvini là è un coglionazzo. Coglionazzo glielo dice 2 o 3 volte al giorno. Sì, perché poi fa sempre un braccio di ferro Bossi, perché dalla parte ma lo imita abbastanza bene Bianconi, poi cosa dice? Ma viene tutti i giorni e siamo amici. e tutti i giorni passa di lì e fa braccio di ferro, perché lui c'ha la parte sana che è forte e arrabbiato, mi mette lì, mi dà delle botte incredibili. E poi tutto contento di avere battuto anche oggi Bianconi a braccio di ferro. E poi dicevo: un coglionazzo, Salvini. Un coglionazzo. Però il problema vero è che i leader non si inventano. Cioè, pensare che Salvini possa essere un leader carismatico è un leader carismatico di un centrodestra libico. Cioè non è un leader carismatico. Il centrodestra bisogna che si rassegni a ritrovare il diritto all'esistenza a Milano. È un discorso molto difficile. Ce l'avete il leader, è Berlusconi. Senta qua Berlusconi. No, Berlusconi, Berlusconi è in intelligenza. È in intelligenza completa e totale con Renzi e non da adesso. Berlusconi aveva un partito che aveva il 38%, seguendo gli interessi delle sue aziende l'ha portato al 10%. Tra l'altro Bianconi, di politica. No, Bianconi mi ha detto, dispiace, no, ma mi ha detto, no, aspetta, mi ha detto tante cose che però ci dovevo fare un'intervista di 3 pagine sul libro, alcune cose le ho dovute togliere, ma mi ha detto questa che adesso ci deve ripetere Bianconi. Dice: Berlusconi è uno che fiuta dove va, dove gli conviene andare e gli conviene andare. Cioè, siccome ha scoperto, com'è quella storia che ci sono tanti bisessuali, se scopre meno, sì, no, non è una storia, è uscita una indagine che ha detto che al di sotto dei 35 anni, mi pare, il 40% ha avuto esperienze bisessuali. Se lui l'annusa e lo fiuta e dice che insomma i bisessuali hanno un peso nella società, come ce l'avevano i vegetariani, come ce l'hanno la amici degli animali, capito? Lui va dove, lui è un follower, cioè lui va dove E mi diventa bisessuale. Esatto, lo può anche dire, io nelle mie esperienze, questa non l'avevo mai detto, ma io capisco, perché ci piglia magari 200-300.000 voti. Hai capito Brindani, cioè Berlusconi va un po'. Berlusconi è assolutamente privo, come tutti i grandi uomini, è assolutamente privo di una bussola Segue i voti, non dite a Berlusconi, non diciamolo che poi dobbiamo andare al traffico, non dite a Berlusconi che il 40% degli under 35 ha avuto esperienze bisessuali, perché se lo scopre e capisce che questo vale 200-300.000 voti, anche lui rivangando nella memoria scopre quella volta in cui dai, andiamo al traffico. Silvio Milan, manda al traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. A Venezia si dice che quando l'acqua tocca il cuoio si imparano a dar. A me sembra che queste primarie stiamo affondando. Scusate, ma questi dovrebbero andare a fare il sindaco di Roma per combattere le loro zuzzurie? È un po' difficile. Renzi che parla in inglese mi sembra di sentire un bambino di seconda elementare che viene interrogato in inglese per la prima volta. Roma deve essere governata da romani che vogliono bene alla città. Cittadini, per le prossime elezioni comunali a Roma, vota Milan. Vota Milan, vota Milan, vota Milan, vota Milan. Sono completamente d'accordo con Fabio Volo. Mario Adinolfi è da curare. Vabbè, allora la mia promessa elettorale per la candidatura a Roma, tanto si candidano tutti, di oggi è: vi darò le Olimpiadi, ma ogni due anni, cari romani, ogni due anni, Olimpiadi straordinarie, come il Giubileo. Vedi qui Brindani, che tu hai fatto lo scoop su Salvini innamorato e Bossi glielo rimprovera, dice: oh, si comporta da ragazzo con la fidanzata, fa il giovane, c'ha la fidanzata. Beh, lui lo chiama coglionazzo e Berlusconi lo chiama il ragazzotto, no? Il ragazzotto, la comparsa Mediaset, ha fatto il lavoro, la comparsa Mediaset. No, dicevamo Berlusconi, sentitelo qui, i leghisti a Roma chi sono? I leghisti di Roma sono tutti ex fascisti, quindi hanno vecchie liti tra di loro che sbocciano tutti i giorni. Tutti ex fascisti. Oh, ma se questa è la premessa, Brindani, ma che succederà in questa campagna elettorale? Cosa si tireranno addosso? No, ma succederà di tutto. Tra l'altro sta succedendo anche a Torino, dove tanto per cambiare il solito Salvini ha tolto l'appoggio al candidato di Berlusconi. che candidato a Napoli si chiama, candidato a Torino si chiama Napoli. Napoli. D'altronde a Napoli hanno candidato il Movimento 5 Stelle Brambilla. Brambilla, un grande casino. E tra l'altro sempre il Movimento 5 Stelle, Casaleggio, sentite qui a Repubblica che gli fa due domande, alla seconda domanda Casaleggio fa una pausa di 10 secondi, dice Repubblica e risponde sta facendo troppe domande lei. Comunque dice Milano, ma Milano non è rilevante, ci sono cose più importanti al mondo, cioè proprio il movimento, come dire, ma chi se ne frega di Milano per il Movimento 5 Stelle. Ma Brindani, ma sai che Bianconi ha raccontato sempre che stava prendendo a sberle la Fornero una volta? No, sì. In Parlamento. Avrebbe fatta piangere. Voleva dare uno schiaffo alla Fornero, va Bianconi, ma questa cosa però dai, no. Non si fa. Ma questa la fanno tutti alla Camera, non è che non è una novità. Cioè, se voi giornalisti che non le sapete, la Camera lo sanno tutti questa cosa. Chi voleva prendere la schiaffi? Ma la Fornero lo sa, cioè, se ne accorge. Gli volevo dare uno schiaffo d'Annunziano. Che è una cosa diversa. Sì, lo schiaffo del disprezzo. È lo schiaffo del disprezzo. Che forse è peggio dello schiaffo. Certo, è umiliante. Come dice De Luca, personaggetti. Ma lei se n'è accorta quando, cioè se n'è accorta, secondo che, me se n'è accorta che l'hanno trattenuto e non secondo ha fatto se, e secondo non ha fatto me se n'è accorta niente. Ha fatto e poi un singhiozzo ha fatto sì, ha perso la bocca sì. Ma comunque è andata così. No, volevo dire che intanto altra notizia notevole è che non è vero che Salvini è ignorante perché legge. E questa è già una notizia. Il libro di perché, Renzi. Perché, poi se legge il libro di Renzi, legge il manuale come imbrogliare gli italiani, quindi anche lui si sta adeguando. È un vero abecedario. Eccolo lì, l'abecedario su come imbrogliare gli italiani. Sì, io glielo contestai quando lui venne al governo, gli lessi la pagina 74 del suo ultimo libro. Anche lei legge il libro di Renzi, che lei leggo, chiama grandissimo cazzaro, ricordiamo. Io leggo qualcosa come 200-250 libri l'anno, e leggo anche i libri di Renzi. Mi piace leggere, sono un lettore indefesso, e spesso uso la lettura rapida, altre volte no. Comunque voglio dire, gliel'ha contestato, Renzi, che diceva in quella pagina? In quella pagina diceva che lui mai e poi mai avrebbe mandato a casa Letta, perché lui amava l'Italia e non il suo interesse, e che se doveva stare fermo un giro per l'Italia sarebbe stato fermo. Vabbè, è uscito due mesi prima. È il primo politico che viene smentito su quello che ha detto qualche mese prima. Ma no, questo qui per dire che faccia che se gli segnitivi 100 lire in faccia rimbalzano. Rideva quando gliene dicevo. Bella questa, Brindani. Se gli tiri 100 lire in faccia, rimbalzano. No, volevo dire a Bianconi, dire a Bianconi un po' a tutto il centrodestra che, tornando per un secondo a quello che ha detto Casaleggio di Milano, no? Forse il centrodestra dovrebbe studiare com'è possibile che a Milano i grillini non esistono. Adesso al di là della funziona il sistema, no, voglio dire, ci sono tre candidati, vogliamo dirlo, tutti e tre di centrodestra, anche quello di sinistra, ma attenzione, no? Perché pare che la Lega tolga l'appoggio a Parisi, c'è anche questa novità. Può succedere. No, Parisi no, può succedere. C'è un accordo in 5 minuti, Renzi, Berlusconi o chi per essi. Berlusconi, sia che vinca Sala, sia che vinca Parisi, governo, e anche se vince Fassaro, è contento. Niente, quindi... Brindani, lui è un complottaro, cioè pensa che ci sia. Ma che cazzo di complottare? È la verità. Se in Italia non... l'ho tradotta in una parola, così. A Milano conta moltissimo Maroni. E Maroni non credo che lascerà stare al ragazzotto anche al coglionazzo. Vabbè, insomma, chi lo sa. Vi lascio anche oggi con il Renzi in inglese, sentiamolo. Bianconi, mi dia un voto, ma oggettivo, oggettivo. Renzi in inglese, oggettivo. No, lo parlo meglio io. Vabbè, sentiamo. I can lose some point on the polls. Cos'è che because ha detto? We decided this strategy. Cos'è che ha detto? Maybe I can lose some points lose in the polls. Polls. But the polls, I prefer lose i polls, the polls, exit polls, cioè i sondaggi. Io preferisco gli exit polls. Insomma, è un po' sfumata, è un po' sfumata. No, però anche... come dice Daniele Capezzone, sì, la prima volta fa ridere, la seconda, insomma, così, la terza che parla sul, a sentire parlare così viene per tutti i coglioni, eh. Cioè, la prima fa ridere, la seconda, insomma, la terza... Basta. Ci saluti Bossi quando lo incontra, eh. Cerchi di mangiare un po' più di carne, così lo batte a braccio di ferro. Vi ringrazio Maurizio Bianconi e Umberto Brindani con lo scoop di Salvini che bacia la Isoardi in copertina di oggi. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:20 minuti in punto, pronti a leggere i giornali, ovviamente con voi, con tutte le notizie. Ah, avremo ospite Giorgia Meloni alle 8:40 con Oscar Giannino, quindi è colei che si candida sindaco a Roma ai nostri microfoni. Allora dai, ci buttiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È vero, ragazzi, per esempio la Gazzetta dello Sport. No, non si può iniziare dalla Gazzetta dello Sport oggi. No, perché c'è questo titolo, così è crudele. Ma perché crudele? Non è proprio crudele. Vabbè, dai, andiamo avanti. Dai. Andiamo avanti, no, commentiamo col solito ordine, disciplina, posizione eretta e serietà. Il Sole 24 Ore, via libera alla super borsa, l'Europa sfida Wall Street, questo è il titolo di prima pagina, mentre le amministrative, ovviamente, per il Corriere della Sera, Meloni in campo, da Roma a Torino si rompe l'alleanza, questo è il titolo di prima pagina. Libero è così, le stupidarie del centrodestra. Mentre la Stampa, l'assalto di Salvini al centrodestra. Il Giornale titola invece gli sfascisti, e sono Lega e Fratelli d'Italia, cioè Salvini e Meloni per il Giornale. Anche il Messaggero sfida a destra, stop a Berlusconi. Per l'Unità addirittura le idi di marzo, non bastava De Manno, Meloni si candida a sindaco e fa fuori il Cavaliere. Questo invece è il titolo di Avvenire, Unione Europea al bivio migranti. Ho tralasciato Repubblica, che leggo adesso in prima pagina, perché c'è la puntata seconda, da cui voglio partire, dell'intervista del direttore di Repubblica Mario Calabresi insieme a Gianluca Di Feo al presidente egiziano Al-Sisi. Ieri parlava di Giulio Regeni, oggi il titolo di prima pagina di Repubblica: Libia, Al-Sisi avverte l'Italia, missione con troppi rischi. E parla appunto della Libia. Ci avverte il presidente egiziano: bisognerebbe porsi 5 domande prima di fare un'operazione in Libia. 1. Come entriamo e come ne usciamo? 2. Chi avrà la responsabilità di rifondare le forze armate e gli apparati di polizia? 3. Nel corso della missione come si gestiranno sicurezza e proteggere la popolazione? 4. Un intervento sarà in grado di provvedere ai bisogni e alle necessità di tutte le comunità e i popoli della Libia? 5. Chi si occuperà della ricostruzione materiale? Ecco, mette in chiaro queste cose per dire: attenzione, comunità internazionale, prima di intervenire in Libia. Se non è abbastanza chiaro, Al-Sisi più avanti dice: bisogna tenere a mente due lezioni, l'Afghanistan e la Somalia. Lì ci sono stati interventi stranieri più di 30 anni fa, e quali progressi sono stati raggiunti da allora? I risultati sono sotto gli occhi di tutti, la storia parla chiaro. Insomma, missione in Libia, l'Italia rischia un'altra Somalia. Questo è il titolo dell'intervista. Al-Sisi, presidente egiziano, su Repubblica, ci mette in guardia dall'avventura libica. Tra l'altro, di lotta al terrorismo internazionale, anche se nelle nostre case si parla ancora per l'operazione a Bruxelles. Intanto la grande paura da Bruxelles a Parigi, 4 arresti, potevano e volevano colpire ancora Parigi, 4 arresti. Tra l'altro si parla appunto dell'operazione di polizia a Bruxelles con insomma, sotto accusa, non è la prima volta, l'inefficienza o presunta tale della polizia belga. Per carità, è facile parlare qui da uno studio radiofonico, ma tutti i giornali raccontano, per esempio, l'ultimo blitz, come è finito. Sentite qui, pagina 11 del Corriere della Sera, i terroristi scappati dal retro dell'appartamento. Ci hanno fatto un blitz e i terroristi sono scappati dal retro della casa. Ma voglio dire, ma adesso, cioè, i film americani in cui si vede che si accerchia una casa e ci sono le forze dell'ordine da una parte e dall'altra, sono film o sono l'ABC di un blitz antiterroristico? E comunque Marco Imarisio racconta proprio questo: sono scappati dal retro della casa i terroristi assediati. Sono cose che capitano, è una cosa che evidentemente faccio il verso io al film Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo, quattro volte, mondo. Veniamo a cose italiane, qualche notizia che mi ha suscitato interesse qua e là, a partire da questa che ho trovato sulla Stampa. Attenzione, pagina 17 della Stampa, succede a Gattinara in provincia di Vercelli, lo racconta Giuseppe Orru. Il titolo è questo: troppe sigarette e pay TV, il comune non ti dà i contributi. A Gattinara il sindaco, 36 anni, avvocato, ha trovato un sistema empirico, ovviamente, per separare i disonesti dagli onesti. Una sorta di furbometro. È il primo caso in Italia, in cui il sindaco si chiede: per chi fa richiesta di accesso ai servizi sociali, quanto spendi all'anno, cittadino, per le sigarette? O per viaggi? O per le vacanze? Quanti veicoli avete? Quante macchine avete? Quanti elettrodomestici avete? È il primo caso in Italia, racconta la Stampa, di confessione laica in cui dichiarare redditi e vizi sotto la propria responsabilità, col rischio di far partire una segnalazione alla finanza se lo stile di vita, la dichiarazione, sono troppo discordanti. Insomma, un metodo per stanare chi in malafede o poca coscienza gestisce male il proprio bilancio familiare. E dice il sindaco: così abbiamo respinto il 20% di domande di contributi arrivate ai servizi sociali. Cioè, vuoi avere i servizi sociali? Hai la pay TV? Eh no, la pay TV non è un diritto, è un lusso, secondo questo principio. E quindi non ti do l'accesso ai servizi sociali. È molto dibattuto, ovviamente, il furbometro, così l'ha chiamato il sindaco. A proposito di furbometro, ci sono storie di furbi. Le storie di furbi. Eccole qua. Ricordate il celebre vigile di Sanremo in mutande? Ora parla, lo fa con Repubblica, Matteo Macor, intervista a pagina 18, Alberto Muraglia, il vigile che ha timbrato in mutande a Sanremo, che si lamenta. Dice: la mia unica colpa, quelle dannate mutande, quella foto in mutande. Adesso, colpa delle mutande. Speriamo pulite, almeno questo. Colpa di quelle dannate mutande. A 54 anni mi sono ritrovato senza una casa, senza un lavoro, preso in giro in mondovisione dal Festival di Sanremo senza il minimo rispetto. Ormai sono condannato. Ogni volta che si parla di assenteismo si tirano in ballo le mie immagini e fa male. Su questo devo dire ha un po' ragione. Cioè, adesso sembra che lui sia l'unico assenteista al mondo, però tante volte la forza delle immagini è impietosa. Non mi ha fatto ridere quando mi hanno preso in giro a Sanremo, non è stato bello, posso capire l'effetto mediatico delle mutande, ma far sghignazzare la gente rendendo ridicolo in quel modo un padre di famiglia che si ritrova licenziato dopo 30 anni di onorato servizio non è stata una bella cosa, credetemi. E tra l'altro ribadisce: guardate che dalla casa mia, dove vivo, alla trimbatrice, insomma l'obliteratrice, ci sono 7 metri di corridoio, va bene, ero a casa, in slip. Era l'appartamento del custode, la timbratrice è lì e ho fatto questa colpa, ho timbrato in mutande. Insomma, non mi pente, ma che ho sempre fatto il mio lavoro, non ho mai chiesto soldi di straordinario. Ma guardate che questa storia, tra l'altro, si è ripetuta anche a Varazze hanno beccato alcuni che timbrano. Se non sbaglio anche lì in mutande, sono ritornate in voga le mutande, ma questo mi dà il là per l'articolo che mi fa incazzare della giornata. E ho trovato, per la verità sono due articoli, la stessa notizia, sul Giorno e su Libero. Leggo questo di Libero, Giordano Tedoldi, si parla sempre di dipendenti pubblici, questa volta siamo alla ASL di Avellino, dove c'è un blitz contro gli assenteisti, finisce con 21 indagati tra medici e infermieri. Lo schema è classico, la telecamera che riprende alcuni che con la timbratrice, insomma, fanno degli scherzi, timbrano tre volte, quattro volte, ma c'è un'immagine che potete trovare sui siti della Polizia di Stato, video diffuso dalla polizia che mostra prima tutte le tipologie di umiliazione, la macchina timbratrice, colleghi che timbrano tris di cartellini, alcuni sono addirittura in ferie ma risultano col cartellino timbrato, ma poi arriva lui. Un dipendente che regola il suo personale conto, la sua frustrazione con l'inerme timbratrice. Tutto immortalato dalle telecamere, la indica, sprezzante, come il più miserabile degli esseri viventi. Lei, la timbratrice, la sua torturatrice, la sua condanna sbeffeggiata sotto l'occhio della telecamera, la guarda e in un gesto di sfacciataggine unica, tiè, le fa il dito medio. Il dipendente dell'ASL di Avellino che fa il dito medio alla timbratrice. Toh! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Milan, i juventini questa notte hanno dormito al calduccio. Con una bella copertina di Alcantara o Alcantara. Attenzione, palla in mezzo, Alcantara, prova lui! Rete. Alcantara. Tiago Alcantara! Alcantara. Prova un parto! Proprio lui! Comunque, come sapete, nella corsa straordinaria, uno spettacolo straordinario che ormai è diventato uno show, le amministrative a Roma, io dico quasi quasi mi candido anch'io, ogni giorno faccio una promessa, oggi ho promesso le Olimpiadi a Roma, ma ogni due anni, cari ascoltatori. E un ascoltatore mi ha detto, Alessà, PS sindaco, promettici Bayern Juve ogni anno. Ogni anno Bayern Juve. Vabbè, vi prometto anche quello, anche una settimana se fosse per me. Comunque, cari ascoltatori, appunto le amministrative a Roma. Allora, Giorgia Meloni, che sarà ai nostri microfoni tra un'ora esatta, alle 8.40, si candida. Ormai è ufficiale, come racconta Tommaso Labate a pagina 5 del Corriere della Sera, e al di là delle candidature di Roma ormai... tutto è chiaro, cioè si guarda oltre, è una battaglia nel centrodestra in cui Salvini e Meloni vogliono fare le scarpe politicamente parlando a Silvio Berlusconi. E quindi Berlusconi tiene duro e dice tengo con Bertolaso, io non mi sposto di un millimetro dalla candidatura di Bertolaso. Tutti i sondaggi dicono che Guido, senza altri del centrodestra tra i piedi, arriverebbe al ballottaggio. Così Silvio Berlusconi. Racconta l'Abate che c'è stata anche un'ultima telefonata di tentativo di riconciliazione tra Meloni e Berlusconi. Stavolta Berlusconi se l'è fatta passare al telefono. E Meloni ha detto se la candidatura di Bertolaso venisse meno, ma non ha neanche finito la frase, non esiste, Giorgia, non esiste. E qui si è consumata la rottura. Li chiama i ragazzotti, Berlusconi. Chiama così Salvini e Giorgia Meloni. Quei ragazzotti si andranno a schiantare. Tra l'altro Daniela Santanchè lancia un'altra questione su Milano, dicendo figuriamoci se ora la Lega non si tira indietro pure dal sostegno a Stefano Parisi a Milano. Stefano Parisi che infatti dice cari alleati non fate scherzi. Insomma, il timore di una frattura che va ben oltre la questione di Roma riguarda tutto il centrodestra. Infatti sempre sul Corriere della Sera Salvini dice anche a Torino il nome di Osvaldo Napoli, candidato, non ci piace e ritira la candidatura e candida una sua persona, il notaio Alberto Morano, 58enne. È un uomo del fare, dice Salvini. Insomma, mi spiace litigare un po' con Berlusconi, ma ci vogliono facce nuove, pulite. Ma lui fa fatica a capire quanto questo sia importante. La frattura è consumata. E anche il Giornale infatti li chiama gli sfascisti, tra l'altro facendo ripetendo quello che Berlusconi ha detto, cioè a Roma sono tutti ex fascisti quelli che stanno con Giorgia Meloni. Il clima è questo. Sentite Bertolaso, intervistato da Repubblica, pagina 6, Guido Bertolaso, con la penna di Giovanna Vitale che lo intervista, dice: non cambia niente. Anzi, sa che le dico? Sono più contento. Mi sono liberato di alcuni compagni di viaggio, francamente, imbarazzanti. E poi aggiunge Bertolaso, torna sulla questione della mamma Meloni. Ho semplicemente ripetuto ciò che lei aveva detto al Family Day. Io le voglio bene. E ho spiegato che mi sembrava una cattiveria costringerla a passare i mesi più belli della sua vita tra buche, sporcizie, topi, discariche e campi rom. Anche Umberto Bossi, che ieri il Corriere della Sera ha detto definisce coglionazzo Matteo Salvini. E prima ce l'ha confermato Maurizio Bianconi, onorevole, che era con noi a questi microfoni alle 6.30, ha detto sì, ogni giorno passa vicino a me allo scranno, alla camera, e mi dice: ma Matteo Salvini è un coglionazzo, e poi se ne va. E oggi Umberto Bossi rilascia un'intervista alla Stampa, Francesca Schianchi, pagina 3, e dice: io voterei Bertolaso, Matteo sbaglia, è un ragazzo. Mentre Berlusconi è come la regina inglese, ancora sveglio. Sentite che dice di Salvini: ha 40 anni ma si comporta da ragazzo, con la fidanzata, la voglia di vivere in modo giovanile. Insomma, se io fossi residente a Roma, voterei Bertolaso. Così Umberto Bossi, che dunque sta con Berlusconi e non con la sua Lega, almeno su questa vicenda. Poi c'è la vicenda Tosi. Flavio Tosi, che ieri anche a Radio 24, Roberta Giordana, ha confermato: forse mi candido a Roma. Allora, io devo fare una confessione, cari ascoltatori. Un po', se dovesse Flavio Tosi candidarsi a Roma, la colpa, un pochino, è mia, lo ammetto. È mia, non lo so. Succede questo. 8 marzo, martedì 8 marzo, sono invitato a Coffee Break, il programma sulla 7 di Andrea Pancani, alle 9:30. E c'era Tosi, e in finale di trasmissione succede questo. Sentite, perché ci sono Tosi e l'altro sono io, l'altro anni, sono io, in particolare Ignazio Marino, ma anche altri, di assoluto non governo. Cioè, a Roma serve un sindaco che sappia fare il sindaco. Si candida Tosi. Tosi da Verona a Roma porterà l'esperienza veronese qui. Buongiorno Mitterlino. Milan mi ha dato un'idea, dice Tosi. Ma io scherzavo, caro sindaco. Era una battuta la mia. Si candida Tosi, le giuro, sindaco, era una battuta. E infatti si rideva in studio, però Tosi ha detto: Milan mi ha dato un'idea. E effettivamente Flavio Tosi è pronto a candidarsi a Roma, il sindaco di Verona. Ragazzi, io non so come non si possa condividere il titolo di Libero: le stupidarie del centrodestra. Questo è il titolo di prima pagina. In tutto questo, invece, a Milano, Casaleggio, così racconta Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, a pagina 9, Casaleggio dice: Milano non è una questione rilevante. Cioè, lo hanno avvicinato la giornalista di Repubblica a un convegno, a una commemorazione di Franca Rame, l'inaugurazione di un giardino, per la verità, intitolato a Franca Rame. Ebbene, gli domandano: ma su Milano è tranquillo? Segue il silenzio di 10 secondi di Casaleggio, che guarda la giornalista e dice: lei fa troppe domande. E comunque ribatte a chi insiste: ci sono problemi più grandi nel mondo, Milano non è poi così rilevante. Così Gianroberto Casaleggio. Sapete che a Milano, al momento, visto che si è ritirata Patrizia Bedori, il Movimento 5 Stelle si trova senza candidato sindaco come nome, ma verrà scelto ovviamente a breve, immagino. Allora, questa è la situazione delle amministrative, un grande spettacolo, un grande show, senza pagare il biglietto, come ci ha detto però Oscar Giannino, poi lo pagheremo con le tasse il biglietto, ma questo succede. Allora, io non lo so perché, ma c'è un po' di livore da parte di tifosi juventini che mi danno gli epiteti più assurdi anche via WhatsApp, mi hanno scritto, me li hanno detti anche a voce, mi hanno proprio detto al 349-238-6666, ci hanno tenuto a dirmi che devo morire, per esempio, cioè, che cosa che succede a tutti, succede prima o poi, E me lo ricorda anche Mauro Meazza ogni tanto. Tra l'altro, Mauro, c'è qualcuno che mi estende un grandissimo vaffa enorme, pregando di estenderlo anche a te, che non hai fatto nulla fino a questo momento. Buongiorno, ma preventivamente ti arrivi. Una chiamata ti di arrivi, corretta. Ti va arrivi, bene. Va bene, ti arrivi. Vabbè. Accettiamo questo. Perché sei un po' troppo allegro stamattina, come mai? No, ma io sì, un po' più triste, un po' più triste. Non ero né tifoso né sono allegro questa mattina. Ma è andata così. No, ti volevo invece riportare su questioni più che, è vero, devi morire, questo per carità te lo dicono anche gli ascoltatori, però sì. Ma magari poi devi anche pagare, no? Sì, ad esempio. E allora ti fa piacere leggere sul Sole 24 Ore di oggi che ieri il Presidente del Consiglio è tornato a dire no, intendiamo tagliare le tasse, anche se naturalmente questo potrebbe peggiorare il nostro deficit, resteremo però nelle regole. Trovi tutto sul Sole 24 Ore, come dove leggi anche che Londra intanto ha deciso che taglierà le tasse sulle imprese, farà calare l'aliquota al 17%, che è un bel salto. Ti voglio segnalare poi che oggi, essendo giovedì, trovi sul Sole 24 Ore Casa 24, dove i numeri 2 e 4, lo dico per gli amici juventini prima che ci insultino, si chiamava già così anche prima di ieri sera, non è casa 42, casa 24. Esatto. No, altrimenti potremmo poi il Sole 42 ore. Lasciamo sta, glissiamo. Poteva Napoletano per un giorno. Così no, cambiare la testata. Un giorno. Non lo so, vuoi proprio che ci vengano a picchiarci lì in sede allora? No, ma dai, la sportività soprattutto. Senti, invece, ascolta bene, finalmente entra in forza la misura per il merito agli insegnanti. Guarda, tu lo sai che io ho messo questo titolo, mi sono permesso di scrivere siamo in un paese medievale, se un giornale come il Sole 24 Ore deve titolare la scuola prova a rompere il tabù, ma perché dobbiamo provare a rompere il tabù? Perché non era semplicissima l'assegnazione di questi fondi, peraltro pochi, non stiamo parlando di fondi milionari per i singoli insegnanti, però era problematica, c'erano delle resistenze anche da parte sindacale, ma il ministro ha deciso di andare avanti, comunque ha presentato questo decreto. Trovi tutti i particolari sul Sole 24 Ore. Ti segnalo poi, se vai sul sito, questo è un po' radiofisco diciamo, se vai sul sito c'è l'ebook che raccoglie le guide al bilancio. So che tu adesso farai il sarcastico, però sono sicuro che ci sono novità molto importanti per i bilanci nel 2016, le puoi trovare raccolte in questo ebook. E infine, pur essendo giovedì, parliamo di condominio. Parliamo di condominio, perché in norme e tributi troverai le indicazioni che sembrano imminenti per poter utilizzare comunque il bonus del 65%, anche nel caso che tu fossi incapiente. A me sembri un po' incapiente, caro mio. Un po' sì. Ho questo sospetto che tu sia incapiente, ma approfondiremo per il momento. Traffico! Alessandro Milan, il Bayern München dell'informazione. Vabbè, oggi va così, cari amici della Juve. Mi scrive anche mio fratello Giovanni, juventino doc, è vero, devi morire, ma juventino, devi morire, ma da juventino, non so, potrebbe succedere nel 2420 dopo un trapianto di cervello totale. Comunque, vabbè, allora, che dobbiamo fare? C'è questa notizia importante, e cioè alcuni giornali, Il Fatto Quotidiano, Libero, raccontano di addio Jobs Act, l'effetto sgravi finito, crollano i contratti stabili, l'atteso verdetto dell'INPS, il calo di gennaio meno 39%. Ma perché cito questa notizia, che è un dato appunto dell'INPS? Proprio nel giorno in cui invece Giuliano Poletti fa una, neanche intervista, un colloquio con Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, un'intera pagina, pagina 9, nella quale il ministro del welfare dice cose sulle quali anche lo stesso Cazzullo dice ma è sicuro, ma ministro, ma è così. Sentite il titolo intanto: poveri e lavoro. Il nostro governo è il più a sinistra della storia della Repubblica Italiana. Così il ministro Poletti. Rivendica il lavoro di questi due anni. Siamo il primo governo ad avere un piano contro la povertà e il no profit. È la prima volta nella storia del nostro paese che nel bilancio dello Stato c'è un fondo finanziato in modo stabile. E già, Aldo Cazzullo, partono i primi dubbi. Il primo, ma ne è proprio sicuro. Sì, è così. E ancora, abbiamo difeso le rendite e non abbiamo promosso le opportunità. Con la cassa integrazione e i prepensionamenti non abbiamo difeso il lavoro, bensì il reddito. Io mi batto per il cambiamento. Basta rendite, moltiplichiamo le opportunità. Vogliamo far passare più treni e vogliamo aiutare le persone a salire sul treno. Questa è la metafora che usa Poletti. E cominciamo con le misure concrete, con le famiglie in stato di povertà con figli minori, 280.000 famiglie, 1.200.000 persone. Ogni persona avrà 80 euro al mese fino a un massimo di 400 a famiglia. Ma ministro, con 400 euro al mese non si campa. Si campa meglio che senza. Fino a oggi quei signori hanno visto zero. Nel 2016 per loro ci sono 760 milioni stanziati, nel 2017 ci sarà 1 miliardo. E stiamo preparando anche altri interventi. Per esempio, ministro, il reddito di cittadinanza che vuole Grillo. Non vogliamo l'assistenzialismo universale, ma un sostegno al reddito affiancato da una rete territoriale che comprende regioni, comuni, volontariato e prende in carico le persone una ad una. Beh, le diranno che è un'elemosina. Non è un'elemosina, dice Poletti. Il cittadino non dipende dal sussidio, prende un impegno, non con me, ma coi contribuenti, deve mandare i bambini a scuola, impegnarsi nella formazione, se gli offrono un lavoro lo deve fare. Insomma, riassume tutto questo colloquio dicendo: io dico che questo è il governo più a sinistra della storia repubblicana. Il che Cazzullo dice: addirittura, ministro, nessuno aveva mai pensato al piano universale per la lotta alla povertà. Insomma, poi dice a Boeri dell'INPS: decidiamo noi. È un Poletti d'attacco, un Poletti d'attacco che non si fa, diciamo, demoralizzare dei risultati e che attacca così. Come attacca anche Ignazio Marino. Sentite qui Ignazio Marino, sconcertante Raffaele Cantone, intervistato anche qui a un colloquio, più che intervistato da Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa. Ignazio Marino, dopo che Cantone, anche ai nostri microfoni ieri qui, ha detto c'è continuità tra la giunta Alemanno e Marino negli appalti poco chiari, per usare un eufemismo, dice Ignazio Marino, ex sindaco di Roma: sono offeso e sconcertato dalle dichiarazioni di Cantone sugli appalti del Comune di Roma. Dire che c'è stata continuità tra la giunta Alemanno e mia è un giudizio politicamente grave e infondato, non un'analisi basata su fatti e numeri. Faccio vedere anche in diretta su Facebook, ci potete vedere dalla pagina di 24 Mattino su Facebook in questo momento. Siamo in diretta con Lorenzo Nespoli che mi riprende. Vi ho detto tante cose brutte, come spesso raccontano i giornali. Posso dirvi due cose simpatiche, belle? La prima, vi ricordate quel professore che è licenziato perché ha fatto pipì tanti anni fa, prese una multa, si dimenticò di dichiararla e nel casellario giudiziario risulta che ha una condanna e quindi è stato cacciato, licenziato in tronco. Una storia incredibile, lo abbiamo invitato. Ebbene, il giorno racconta il professore licenziato per la pipì forse verrà reintegrato. Il ministero sta cercando i modi anche burocratici per ovviare a questa follia. È la storia di Stefano Ro, il ministero pronto a mediare, il giudice aggiorna l'udienza. Quindi insomma, siamo contenti che per il nostro piccolissimo, avendo dato spazio a questa storia, forse qualcosa si sta muovendo. Come segnalo sulla Stampa, una bellissima storia, la storia di Daniele Cassioli, 29 anni, cieco dalla nascita, che però non si è mai lasciato fermare da questa sua caratteristica fisica e nello sci nautico è un vero campione, ha già vinto 16 titoli mondiali. Daniele, tutto adrenalina e velocità, la sfida al buio del campione di sci nautico. Non vede dalla nascita, ha vinto 16 titoli mondiali, dice di se stesso il segreto è non avere mai limiti. Viene intervistato da Davide Boretti, è una storia molto bella di questo ragazzo, di questo uomo, 29 anni, che davvero fa qualcosa di straordinario tutti i giorni e viene raccontato dalla Stampa. Siamo in chiusura, cosa c'è ancora di spazio? Beh, vorrei leggere qualcosa, ma di corto. Ah, questa storia del Politecnico di Torino non è male. Sulla stampa, il Politecnico di Torino ha deciso di dare un pugno di ferro sui fuori corso. Il Politecnico di Torino dice: chi non ha i crediti, caro studente fuori corso, cioè non fai gli esami in tempo, perdi tutti i crediti e vieni espulso di fatto. Devi rifare il test di ammissione, devi ripartire. Cioè il grande dibattito se sia giusto oppure no far laureare gli studenti in tempo. E c'è una pagina di Fabrizio Assandri dedicata a questo, il pugno di ferro del Politecnico di Torino sui fuori corso. C'è chi è favorevole, come il vice rettore ovviamente Anita Tabacco, che viene intervistata. Chi è contrario è una studentessa che dice ma no, insomma, ci vogliono aiuti a chi è in difficoltà invece di affossare lo studente un po' in difficoltà. Però un bel po' di fannulloni che così gozzovigliano all'università per anni, tanto paga papà, ci sono in Italia. Va bene, dai, allora la Gazzetta dello Sport la rifacciamo vedere? Così è crudele, questo è il titolo del... Così è crudele. C'hai un gol? Uno a caso della granuola di gol che... Attenzione, palla in mezzo, Alcantara, anche... prova lui! È sempre questo, Alcantara! Va bene, dai, la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali è questo, l'ho trovato al volo, una pagina di intervista di Mimmo Di Marzio sul giornale alla mamma di Umberto Smaila, che compie 90 anni, ma augurissimi alla mamma di Umberto Smaila, questi davvero, auguri. Ma chi se ne frega!